Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek el Asulam, sulla via per la scala, lezione numero 5. E la condizione di Katnut, piccola condizione, è nel nome, è chiamata, Soshana tra le spine, perché 9 sfirot nel fondo di lei sono diventate vuoti della luce di Azilut. Abbiamo visto i 9 sfirot di Azilut caduti in Bria. Bria, Yetzira e Asiya sono i mondi di separazione. C'è già una piccola separazione della luce. I 9 sfirot sono come caduti in Bria, ed è per quello che sono senza luce di Azilut, la luce di Kochma. Ci sono un totale di 5 mondi e ogni mondo ha la sua luce coordinata all'interno. Il mondo Olam Adam Kadmon era il primo mondo esistito ed è sotto la luce di Keter, la luce più alta. Luce Keter significa anche luce di Yekidah, unità. Nel mondo successivo c'era meno luce perché era più grossolano. Azilut è in relazione con la luce Kayach, la luce Kochmah, ed è il perché tutto il bene viene da Azilut, dalla luce Kochmah. E le 9 sfirot della Shoshanah, che sono come caduti in Briah, sono considerati come essere senza luce, né luce di Azilut o luce di Kochmah, perché Bria è in relazione con la luce Neshamah, la luce di Bria. Questo è lo stesso, ma uno è di qualità e l'altro è Sfira. La luce Neshamah dà luce di nutrimento, è abbastanza, ma non è come la luce di Azilut. Nel mondo Olam Yetzirah c'è una luce inferiore, luce Ruach, luce Zerampin, e in Olam Asiya è il più alto grossolano della luce e quindi riceve la luce più bassa, la luce Nefesh. Avevamo già imparato il principio del cilindro. Domanda di un partecipante del corso. Il livello dell'anima è uguale al livello della luce? Risposta: sì, si potrebbe dire così. È sempre collegato a ciò che un Kli può ricevere, e Kli è l'anima. Quando un Kli ha un certo livello di sviluppo, livello di correzione, si è portato da sé in armonia con il superiore. Riceve la luce Kochmah, luce Kaya, poi si potrebbe dire che il livello dell'anima è di Kayah di Azilut. Quando parliamo di Kelim, parliamo sempre sui Kelim che sono capaci di ricevere la luce. Non parliamo mai di Kelim che non sono corretti. Zohar e così Ari parlano sempre dei Kelim che sono capaci di ricevere le luci che stiamo imparando e non prima della correzione. Naturalmente tutti i gradi della correzione sono discussi, ma quando un'anima è ancora egoista è considerata come non esistente. Nella Kabbalah, quando qualcosa non ha ancora sperimentato la luce, è completamente egoistica, è considerato come non esistente. Naturalmente esiste come un germe, solo che non è ancora sperimentato. Durante Yom Kippur, giorno di espiazione, è pronunciata la seguente preghiera: scrivici nel libro della vita. Questo significa: lascia nei nostri Kelim, nella nostra anima, brillare la luce. Non fare alcuna stampa perché non c'è libro. Così le 9 sfirot cadono nell'Olam Briah, e c'è Or Neshamah, Or Binah e quella è una frazione di quella che è Or Kokhma di Azilut. Spiegheremo più tardi, non dobbiamo cercare di andare oltre. Poi lo Zohar ce lo spiega. E quelle restano dietro a Bria come spine. Le spine non fioriscono, non c'è vita in esse. Non fare un'immagine, deve portarti al sentimento dell'essenza di cosa esso è. Esse stanno in Bria senza luce, sono come spine. Se ci sentiamo male o irritati, sentiamo punti nel nostro stomaco, come qualcosa di negativo che ci sta cucendo, allo stesso modo con le spine. Lo Zohar non è simbolico o allegorico. E la condizione di Gadlut, la grande condizione, è chiamata Shoshana comune. Comune Shoshana senza designazione. Shoshana sotto le spine è una piccola condizione di Malkut. Solo una sfira alla luce e le nove sotto sono come cadute. Quando Shoshana può riempire ogni cosa con la luce, lei è nella condizione di Gadlut, grande condizione. Tutti noi sperimenteremo questo in noi stessi, che è chiamata Shoshana, giglio. Or Knesset Israel. Io dico Knesset perché nell'ultimo mondo finisce con una vocale e in ebraico la parola successiva è pronunciata con H anziché con K. Zohar dà un altro nome per Shoshana nella condizione di Gadlut, la sua grande condizione, Knesset Israel. E questo è quello che aveva detto. Lui è R. Kitzkia, l'autore di questa dichiarazione. Kitzkia. C'è un giglio e c'è un giglio. Ci sono due tipi di gigli. Un giglio nella situazione di Katnut, una piccola situazione in cui lei sperimenta solo una emanazione della luce, e le nove sotto sono considerate come cadute in Bria. Non hanno luce ed esse sono viste come sotto le spine. E l'altra situazione di questa Shoshana è Gadlut, la grande situazione che viene dalla parola Gadol, grande. Questo significa che tutti e dieci possono sperimentare la luce. È tutto sulla percezione. I punti di forza che stiamo ancora imparando sono del mondo Olam Azilut. Questo è il sistema operativo dell'universo. Dove siamo? Azilut è il sistema operativo e sotto Azilut viene il mondo Bria, Yetzirah e Asiya. In Bria, abbreviazione di Bria, Yetzirah e Asiya, sono le anime di Tzadikim, giusti. Queste anime molto grandi possono stare lì regolarmente. Attingono da lì la loro luce e da Azilut fluisce agli altri mondi. Poche anime speciali hanno le loro radici in Azilut. Solo una volta ogni 10 generazioni esse vengono in un corpo fisico. E oltre questi mondi c'è l'esperienza del nostro mondo. Le restanti anime degli esseri umani sono nel nostro mondo. L'esperienza è anche da luoghi diversi. Tutte le anime sono quindi in Bria, Yetzirah e Asiya, surplus al nostro mondo, come una continuazione del mondo Asiya. L'essere umano corrisponde con il superiore. Quello che stiamo imparando su Nukva di Shoshana sono le condizioni che possiamo sperimentare. Zeranpin e Malkut. Zeranpin è il principio maschile, destra, e Nukvah è il principio femminile, sinistra. Vedremo che l'obiettivo del sistema operativo è portarli insieme. Anche nel nostro mondo ci sforziamo e sperimentiamo questo, nel corso del quale sperimenteremo entrambi, la parte maschile e quella femminile in noi stessi. O se uomo o una donna, questo non importa. In ogni situazione l'uomo deve imparare a sperimentare questi due lati in se stesso, e solo questo ci dà il bacio della vita, il salvagente per così dire. Quando un uomo sperimenta solo la destra o la sinistra, ha una mancanza. Lo impareremo tutti questo. Non voglio portare sotto i piedi lo Zohar. 6.000 anni sono dati per lasciare Zerampin e Malkut, venire in completa fusione e diventare grandi. Anche il Sole è più grande della Luna. Zohar parla con le parole del nostro mondo. Il Sole è Zerampin e la Luna è Nukvah. Il Sole anche sarà in questi 6.000 anni più grande della Luna. L'intenzione è, vedremo come questo è fatto, che alla fine di questi 6.000 anni, 6.000 correzioni, come loro vengono allo stesso livello. Deve essere nel nostro scopo che veniamo, in ogni situazione, all'esperienza di entrambi, maschile, Zerampin, e femminile, Nukva, in noi stessi. Vedi qui il colore rosso impara. C'è la presa dall'esterno, le forze, e dei klipot, forze impure. Klipa significa guscio, klipot è plurale e klipa è singolare. Rosso significa che sta succhiando da forze esterne, dai klipot. Noi chiamiamo queste forze impure, ma non è una buona concezione che le forze impure suonino come impuro, negativo, mentre al contrario non è negativo. Ciò non significa che tutto sia cattivo. La pelle di una mela non è buona. Il più delle volte non mangiamo la pelle, ma protegge il frutto. Impareremo ogni cosa che nella creazione è buono, è funzionale. Con il tempo impareremo, non voglio andare avanti. Zohar deve darci il sentimento. Solo Zohar può guidarci. Per succhiare a. In ebraico succhiare ha lo stesso significato del bambino che succhia il seno della madre. Che magnifico linguaggio, succhiare del puro, dove è la luce. E quello è nella condizione del katnut. In questo tempo esiste il succhiare a qualcosa che è fuori. Che questi sfirotti in fondo di lei, cioè di Shoshana di Nukva, esse sono in Briah. E in lei è anche l'aspetto di bianco. Cosa significa? Nel Kli Keter di lei. Cosa ci dice qui? All'improvviso parla di due colori. Possiamo capire che un giglio ha un colore bianco. Ora dice che le nove parti nel fondo, Sfirot del giglio Malkut Nukva, ha il colore rosso. Non che questo sia un colore, non riguarda solo i colori del contenuto qualitativo per darci un sentimento. Nella Sfirah Keter, che rimane in Azilut, è il colore bianco. Possiamo trarre la conclusione che è bianco perché c'è luce. Lui ci dice ora, nelle nove Sfirot nel fondo, che riguarda forze esterne, e klipot, pelli, forze impure. Lui collega questo con il colore rosso. Nella Sfirah Keter c'è il bianco. Non c'è succhiamento di esterni in questo Keter. Quindi una sfira, Keter, dove è luce, resta in Azilut. In questa sfira siede il colore bianco. Non c'è succhiare di forze esterne, di forze impure. Vedremo di cosa si tratta. Uno sfira in bianco e il fondo, le nove sfirot, sono ancora in rosso. Quando una donna si sposa ha un abito da sposa bianco, perché è una tradizione, ma in questa tradizione ci mostra con il suo vestito bianco non c'è posto in me per altri esterni di succhiare. Il colore bianco mostra che lei è pura, non c'è succhiare né nei pensieri. Il nostro mondo è assolutamente un riflesso dello spirituale. E quello è ciò che è scritto. Proprio come Shoshana, che lei è sotto le spine, lei ha i colori rosso e bianco. Così per Knesset Israel ha in sé severità e misericordia. Per riflettere che anche nella sua grande condizione, o giglio, Shoshana Malkut, nel tempo lei è chiamata Knesset Israel, perché lei ha raccolto tutte le luci in se stessa, quindi è una grande condizione. Nonostante che lei sia alzata e contiene la Binah, in una grande condizione tutti i 9 Sfirò vengono da Briah fino ad Azilut. Nella sua grande condizione, proprio come menzionato sopra. Tuttavia, in lei rimane l'aspetto severità, perché lei, la severità Din, è necessario per il segreto dello schermo, Masach. Così, nella sua grande condizione esiste Din che è necessaria per Masach, schermo, che a lei è instillato a causa della fusione-collisione. Fusione-collisione. Attraverso la collisione viene una fusione. Abbi pazienza, presto te lo dirò perché è di vitale importanza. L'intero Zohar costruirà questo e molte nuove dimensioni noi riceveremo. Data la severità che è nello schermo, che colpisce l'alta luce e lascia lui tornare e discende con quelle 10 sfirotte della luce riflettente. Questa è chiamata luce di severità. Din è anche il giudizio e attira dentro, nella luce riflettente, 10 sfirò della luce diretta. La luce diretta è luce che non è legata a un cli. Presto darò una spiegazione. Questa è anche chiamata luce di misericordia. Di nuovo abbiamo visto 3 luci, luce di severità, luce di misericordia e luce riflettente. Quindi, anche in Knesset Israel, Nukva, nella sua grande situazione, quando lei ha 10 sfirot, ha in sé severità e misericordia, opposto il rosso e il bianco nel giglio sotto le spine. Quantità enormi di informazioni, cercheremo di decifrare. L'ultima volta abbiamo già detto ogni cosa che Zohar ci dice del nostro mondo. Dovremmo guardare su dove lo Zohar parla in termini custodito, su quale posto nel sistema operativo dell'universo. Torniamo a rosso, significa che c'è un succhiare di forze esterne, e bianco significa che non c'è succhio, c'è luce. Abbiamo visto anche in Shoshana il colore bianco e quello è nel Keter. In Shoshana esistono quindi 2 colori, bianco e rosso. Lo stesso Zohar fa un paragone di Knesset Israel, la grande condizione di Malkut, Shoshana. Abbiamo anche detto che c'è Shoshana giglio sotto le spine, è una piccola condizione di Malkut. E Shoshana senza designazione o sotto le spine è la grande condizione. Ora lo Zohar fa una connessione con un'altra definizione, Knesset Israel. Opposto al rosso abbiamo severità perché c'è una mancanza. Opposto al bianco di Keter, la prima sfira di Shoshana che sta in piedi nella luce, c'è in Knesset Israel anche la misericordia. Niente rosso o bianco. È solo educato per darci qualche sentimento. Il bianco è puro e nel rosso c'è qualcosa in esso. È anche il colore della passione. Non c'è niente di sbagliato nel colore rosso, c'è solo una sorta di succhiare dalle forze esterne. Malkut è l'ultima stazione del mondo Azilut e confina con i mondi inferiori dove non c'è più alcuna perfezione. Perché è una stazione di confine, ci sono anche forze impure, clipot dai mondi inferiori. È lo stesso con un uomo nel nostro mondo. Prima vive in una piccola strada, può essere come uno studente, naturalmente non è male, ma più tardi, quando si è laureato, va a vivere in un altro ambiente. Per avvicinarsi al bianco nella sua percezione, quindi, lui va a vivere in un ambiente più piacevole. È lo stesso nello spirituale, tutto va alla perfezione. nell'ultima frase della prima colonna ci dice anche qualcosa di speciale. Dobbiamo considerare che lui sta per dirci che solo nella piccola condizione c'è una mancanza, un assorbimento di forze rosse. Quando ci sono 10 non c'è posto per il rosso, solo per il bianco. Lui però ci delude. Penseremmo che se ci sono 10 siamo in Gadlut e c'è solo il bianco e il sottile. Perché questo deve essere così difficile? Perché devono esserci 2 punti di forza se ho già corretto me stesso per un certo desiderio? Qui vi è un enorme segreto e di vitale importanza. Lentamente cercherò di spiegare, pollice per pollice, una meravigliosa rivelazione della luce divina. Ci dice, nella seconda colonna in alto, nonostante la grande condizione in cui arriva Knesset Israel, c'è severità, din. Più avanti impareremo cosa significa essere in una grande o piccola condizione, come venire in queste condizioni. Nel principio, quando non c'era nessun essere umano, il creatore ha per così dire costruito già il meccanismo in modo che funzioni, qualcosa può discendere, eccetera. Dopo che l'uomo è sulla terra, nulla si alza su se stesso o discende nella percezione. Tutto è dinamico, stabile e statico allo stesso tempo. Niente si muove, solo l'uomo si muove dall'interno. Solo l'uomo può sollevare Malkut, Shoshana e Knesset Israel fuori di Briah. I 9 Sfirot della Shoshana stanno in un modo al piano di sotto e in quei 6.000 anni della creazione dobbiamo lasciarli andare su, portarli ad Azilut. Non possono farlo da loro, solo l'uomo può fare questo. Quindi, quando cediamo per Man, pronuncia una preghiera, la preghiera è piuttosto diversa, poi pensiamo, è dall'interno che chiedi al superiore. Impareremo tutti come funziona. È stupefacente cos'è la preghiera. Solo l'uomo può dal basso sollevare una richiesta. Impareremo a fare movimenti dal basso verso l'alto e dall'alto al basso, non solo sopra. In un modo, noi ascendiamo con la nostra propria Torah proprio come Mosè. Anche noi tireremo quelle forze verso sotto. A sopra e sotto, e con questo arricchiamo i mondi superiori, quanto strano può essere il suono. Attraverso un buon vivere, a vivere secondo le leggi dell'universo, portiamo per così dire perfezione ai mondi superiori. In questo modo il Creatore lo ha creato, siamo partner di Lui. E se pronunciamo una preghiera, solo allora la Malkut tira la Shoshana con i suoi propri 9 Sfirot in alto. Non necessariamente tutti e 9 insieme, dipende dalla tua preghiera. Se la mia preghiera è di valore di una sfira, solo una sfira discenderà dal rosso al bianco. E quando la mia preghiera diventa più sincera, potente, sarà di più. Dobbiamo sapere che nulla va su se non facciamo alcuno sforzo qui sotto e abbiamo il vero desiderio. Non un infantile fastidioso come dammi questo e dammi quello, ma quello che chiediamo porta sopra con un atteggiamento altruistico. In questo modo veniamo in armonia con l'universo e suscitiamo come se fosse qualcosa a Malkut. È da sopra che suscitiamo di fare qualcosa per noi. Nulla viene dall'alto se qui sotto non è suscitato. Quando un bambino dorme nella culla, anche il padre e la madre dormono. Sarebbe perfetto se dorme tutta la notte, è più semplice. Quando il bambino si sveglia e piange, il pianto di un bambino è orribile ed è un pianto esigente. La madre si sveglia e lei sveglia il padre. È lo stesso nello spirituale. Ima, la madre, chiede al padre e il padre si alza e va in cucina a fare qualcosa di caldo. E lei dà direttamente l'alimento al bambino. Ma il padre deve fare ogni tipo di cose, lui non può dare direttamente al bambino. Ancora stiamo parlando sullo stesso sistema di controllo. Per il momento senza l'essere umano, ma l'uomo è assolutamente coinvolto. Lui dice Knesset Israel, la Malkut, eravamo tutti per ricevere e che ci aiuta con tutti i nostri adempimenti nella nostra vita. Ci porta a luce Kokma, la luce di vita. Lei è in una regione di confine e può portarcela. Lei consiste fuori di due punti di forza, severità Din e misericordia Rachamim, considerando il fatto che ha ricevuto la condizione di Gadlut, la grande condizione. Ora lui sta andando a spiegare perché. Dovremmo aspettare che siamo arrivati nel Nirvana, proprio come fanno le persone nel nostro mondo e poi finiscono, ma non lo è. Anche se sperimentiamo 10 Sfirot, sempre quei due punti di forza sono severità Din e misericordia Rachamim. Sono come se fossero integrati. Non andiamo a volare come angeli. Lui dice Din è necessaria. Noi diremmo, dacci solo le cose buone, perché la severità? Stiamo imparando come questo è nell'universo. Ed è irremovibile ciò che stiamo imparando, è per sempre, sono le leggi dell'universo. Non abbiamo nulla a che fare con la religione, assolutamente no. Ricorda questo, esso non è una religione. Per noi religione significa che abbiamo fiducia nelle leggi dell'universo, fede, perché non le sperimentiamo ancora. Quando sperimentiamo non c'è bisogno di fede. Solo quando andiamo oltre al prossimo grado abbiamo bisogno di fede perché non abbiamo ancora la forza per l'esperienza. La fede, necessariamente, è per penetrare il prossimo grado, a osservare. Se abbiamo raggiunto il prossimo grado, il grado successivo, i nostri occhi sono aperti per il grado riguardante. Il grado è anche in noi e c'è un accordo con il grado in Azilut. Ogni volta che impari Zohar o pensi allo Zohar, devi dire a te stesso: questo libro riguarda me. Questo libro parla su ognuno che è disposto a imparare e non riguarda i popoli o quelli che hanno una religione. Anche quando qualcuno non ha una religione, lo Zohar parla anche riguardo a lui. Lui dà a questa persona la capacità di venire in armonia con le leggi dell'universo. Questo è per tutti. Dice che la severità Din, gradualmente useremo sempre più parole ebraiche, perché la forza nella parola è anche preziosa, così Din è necessaria per costruire sullo schermo, Masak. Ci sta dicendo che ci sono nella grande condizione due punti di forza, Din e Rachamim, severità e misericordia. Perché abbiamo bisogno di severità? Lui ci dice a causa del Masak, lo schermo, della forza anti-egoistica, limitazione. Senza limiti non possiamo comprendere nulla. In ogni situazione abbiamo bisogno non solo di misericordia, ma anche di una sorta di restrizione. Per esempio, stai camminando e vedi qualcuno in una situazione terribile, da droga o qualsiasi altra cosa, lui ha un aspetto trascurato, ha un cattivo odore e tu senti in te stesso salire sulla misericordia. Gli dai un sacco di soldi o qualsiasi altra cosa. Nella religione questo è molto grande, hai appena ricevuto il tuo salario e non c'è nessuna restrizione nel tuo sentimento di misericordia, Rachamim, e gli dai metà o anche più del tuo stipendio, un'azione meravigliosa. Senza Din questo può essere un atto di codardia, un atto che non è in accordo con le leggi dell'universo, non può essere di alcun aiuto. Perché? Perché uno si oppone all'altro e deve essere pesato. Supponi di dargli 500 euro e dire «alzati, trovati un buon pasto, un drink o vai all'assistenza sociale o cerca un lavoro». Nei tuoi occhi fai una buona azione, ma in relazione a lui questo è un atto di adulterio. Accetta i tuoi soldi e direttamente va da un rivenditore o compra qualche drink o altro e non lo sviluppa bene per lui. Ogni cosa deve essere fatta con moderazione a livello dei punti di forza. Nella grande condizione devi avere sempre questi due punti di forza. Asulam dice che abbiamo bisogno di Din, severità a causa del Masak, lo schermo. Cos'è uno schermo nel nostro mondo? Ogni cosa che deve essere schermata, cioè ciò che rende un confine, è uno schermo. Perché abbiamo bisogno di questo confine, lo vedremo. Prima una piccola pausa dove puoi mangiare e bere senza Masak. Severità, Din, è necessaria per costruire Masak. Il commentario, estensione su Zohar, ci dice che abbiamo bisogno di Din per il segreto del Masak, che è installato a Malkut per il bene della fusione-collisione. Zivug te H. Spiegherò un po' cosa intende con questo. Non tutti hanno seguito il corso precedente e questo è un corso di un livello diverso. Zivug significa nel moderno ebraico copulazione. Pertanto per un israelita è più difficile. Zohar usa termini come seni, gambe, abbracci, eccetera, cose che associamo con le azioni fisiche. Prova a imparare solo Zivug TH. Zivug è contatto. Avere contatto con l'un l'altro significa unità. Uno raggiunge il livello dell'altro. Come risultato del lavoro interiore, un elemento discende alla scala a un'altra scala. Come possiamo discendere? Cercherò di spiegare come riceviamo la forza per discendere. Lui ci dice che per il bene di Din, che è nel Masak, colpisce l'alta luce e lo lascia ritornare. È molto importante sapere come funziona questo meccanismo, perché ogni cosa funziona in questo modo. Ogni ricezione della luce, ogni comprensione va in questo modo. Vedere il disegno 5 fatto durante il seguente. Abbiamo detto che ci sono sempre due partecipanti, luce e Kli. La luce risplende, per così dire, attraverso il Kli. La luce non ha limiti. In una chiesa o in una sinagoga brilla la stessa luce dall'alto, ma non ne cogliamo l'avviso di questo. Per rivelare la luce, a osservare la luce, deve essere coinvolta un'interazione. Un Kli deve vedere la luce, anche per una piccola parte. Questo è il meccanismo tra la luce e il Kli. Ovviamente la luce non ha limiti ovunque tu sia. La luce non è legata a un luogo o al tempo. Non è legata a nulla, la luce è eterna. Sperimentando la luce ha tutto a che fare con la nostra capacità di osservazione. Tutto dipende dal nostro grado di correzione, di un Kli per sperimentare la luce. La luce deve essere sperimentata. Come? Te lo spiego. Zohar ci dice anche, nella grande situazione, che rimangono due punti di forza nel Kli. In un Kli c'è Din, severità, e Rachamim, misericordia. Abbiamo bisogno della forza di Din per fare un limite, fino a qui e non oltre. Una sfirà sul lato destro è sempre più alta di quella a sinistra. Per esempio, Kesed è a destra e Gvura, o Din, che nel principio è lo stesso, più tardi impareremo i trucchi, è sinistra. La luce viene da Kesed a Gvura, Din. La difficoltà con i disegni è che cerchiamo di ricordarli. È disegnato in modo tale che sembra che Kesed sia a destra e Gvura a sinistra, ma la luce cade dritta giù. Abbiamo scritto che Kesed è Rachamim. Zohar dice così, ma intende è luce Chassadim, perché Rachamim è solitamente nel mezzo. Disegno 5. Quando la luce ascende non si può fermare a Chesed, Chassadim, misericordia, perché non c'è limite alla misericordia. Solo la misericordia senza severità, Din, conduce ad un atto immaturo, che Zed non ha confini. Dare senza limiti è effettivamente non dare. Capisci? Quando qualcuno dà subito dal suo cuore, è nella regola un atto di adulterio. Da un lato è buono dare. Come può essere cattivo il dare? Un vero dare quando ci sono quei due punti di forza, da una parte la dedizione e dall'altra una severità nascosta. Questo è dare secondo le leggi dell'universo e non secondo l'intuizione del cuore umano e o delle loro idee. La luce sempre scende al Masak, lo schermo, e il Masak è sempre a Malkut. Malkut è quindi quella che ha la forza di sentire Din. Se c'è Masak in Gvura, intendiamo che Malkut è discesa a Gvura. L'intero scopo è che Malkut discenda a Keter. Din esiste sempre in una sorta di miscelazione diversa, poi a nero perché è mescolata con la luce, tuttavia esiste sempre, perché c'è sempre una specie di Malkut che è nera, là non entra assolutamente nessuna luce. Per tutti e anche per noi che stiamo cercando di salire la scala spirituale, Din esiste sempre. Certo diventa più facile, non ci darà la sensazione di Din, ma è sempre nascosta in un modo o nell'altro. È necessario per noi che Din sia presente, altrimenti non potremmo vedere la luce. Zohar ci dice che Din è la forza di Malkut ed è necessaria per la forza per la fusione e collisione, Zivut e Aka. In alto i 9 Sfirot sono qualità della luce, e per questo la luce può arrivare a Malkut, anche a noi. Anche noi abbiamo buone qualità, possiamo essere carini perché i nostri 9 Sfirot in alto hanno anche la qualità della luce, ed è per quello che possiamo venire in armonia, portarci in accordo con la luce. Ovviamente non è una correzione, ma ci dà la possibilità di essere buoni l'uno con l'altro all'esterno. Non la decima sfirà, non è possibile mostrare la decima sfirà, e questo è buono perché c'è tutta la miseria. Per questo motivo non dovresti parlare sul tuo lavoro spirituale, perché se sei impegnato con lo spirituale devi affrontare Malkut, con il tuo lato oscuro, e non parlare di questo con nessuno, solo con la luce, per dare alla tua nera scura Malkut un'altra gradazione di luce, per fonderla con la forza di Chassadim o Rachamim, per fonderti con il tuo avversario, per imparare la tua Malkut, il tuo punto nero esperto, quanto più possibile alla luce. Come si va oltre? La luce cerca di penetrare nella Malkut perché la Malkut, il Kli, la creazione, ha fatto un limite così che noi non riceviamo in modo egoistico. La legge è fatta così che quando riceviamo egoisticamente non possiamo sperimentare assolutamente nulla. È lo stesso nel nostro mondo. C'è una canzone, io non posso ottenere soddisfazione. E il cantante della canzone ha raggiunto ogni cosa nella sua vita che lui ha voluto. Perché? Perché le leggi dell'universo sono fatte in modo tale che ci sia, era e non sarà soddisfazione se non siamo abili alle leggi dell'universo. Se non siamo abili alle leggi dell'universo, solo la miseria sarà lì, e tu vai da una miseria all'altra. Luce diretta, Or Yashar, luce diretta, Or Yashar, è luce che non è ancora racchiusa da un Kli. Zohar ci dice che siamo creati proprio come la luce per venire direttamente al piano inferiore. Adam Kadmon non aveva scuse, se fai bene la luce viene da Keter, Kokmah Binah, e in questo modo direttamente al piano inferiore, e se non fai bene si ferma, poi c'è miseria. L'essere umano non potrebbe esistere in questo modo e quindi il mondo l'ha organizzato per noi in un altro modo, come Adam Kadmon, in modo che anche noi abbiamo due punti di forza. La misericordia è meravigliosa, ma è una condizione immatura. Quando l'uomo arriva alla piena maturità, non ha familiarità con la destra e la sinistra, diventa una luce direttamente in alto. Poi l'uomo non sente alcun dolore. Oryashar sempre va a Malkut. Malkut è l'unico posto nei mondi come qui con noi dove c'è una considerazione se lo accettiamo o lo rifiutiamo. In questo modo Malkut fa lo stesso con noi. 3 drink e non di più. Le do un bacio e non di più. Limitare è molto importante. Non è saggio invitare tutti a lasciarli entrare. Devi limitare. In primo luogo Malkut riflette la luce diretta. È lo stesso qui con noi. Prendiamo una tazza di caffè o no, faccio quella telefonata o no, ogni cosa che facciamo è in accordo alla stessa legge. Che cosa ha la luce di Oryashar a che fare se beviamo una tazza di caffè? Si può vedere il caffè come la luce diretta. Il caffè è uno stimolante. Il piacere spirituale o fisico è solo una differenza nella graduazione della luce. Tutti i dispositivi di nutrimento sono dati a noi per confrontare. Se compri il pane alla panetteria, non mangi tutto il pane subito. Lo mangi fetta per fetta, metti in bocca solo ciò che puoi mangiare. Poi mastichi l'intero processo per prenderlo dentro. È esattamente lo stesso nello spirituale. La prima reazione dal basso, dal Kli, è sempre no. Ogni soddisfazione, piacere, devi prima respingere. È sempre così, immutabile. Fino alla venuta del Messia sarà in questo modo, non è mai stato diverso. Quindi prima c'è il rifiuto, quindi il calcolo perché non siamo corretti. Più hai imparato la Kabbalah, più sei corretto, sentirai che devi pensare di meno, fare meno considerazione. Pensiamo perché non abbiamo abbastanza forza. Là deve venire una situazione che non dobbiamo pensare. Deve diventare un'osservazione spontanea. La luce viene a te e direttamente la rifiuti e calcoli, calcolando come quanta luce puoi ricevere proprio come con la fetta di pane. Quando non hai forza per ricevere la luce, non puoi vederla. Perciò è di vitale importanza avere in ogni situazione Rachamim o Chassadim. Non arrabbiarsi o infuriarsi è orribile. Ogni cosa che hai costruito sarà buttato giù attraverso questo comportamento. È scritto: se ti attieni con i regolamenti scritti nella Torah, come non uccidere, eccetera, ma ti arrabbi anche per le piccole cose, è molto peggio che infrangere le regole della Torah. Questo è scritto, puoi immaginare, anche il regolamento tu non ucciderai. Per ogni cosa che un essere umano fa ed è proibito dalla Torah, c'è una correzione, c'è una possibilità per il pentimento. Il pentimento non è qualcosa pensato da una chiesa o da una sinagoga, è stabilito dalla creazione stessa. Attraverso il pentimento puoi venire alla coscienza pulita. Quando è un sincero pentimento, ma quando ti arrabbi non sarà perdonato. Tutto ciò che hai costruito cade a pezzi, lo butti come se fosse nella pattumiera. Il Kli è rotto e poi nessuna riparazione è possibile. Devi ricominciare di nuovo, iniziare tutto con il tuo lavoro spirituale. Questo non è un gioco, sii consapevole di questo. Abbi piena cura, presta attenzione. Non essere arrabbiato nemmeno per un piccolo momento, e non riguarda solo l'espressione della tua rabbia. Quando senti venire la rabbia, devi cercare di soffocarla subito, così non ci sarà reazione. Non è il nostro potere non arrabbiarci, ma possiamo stroncarlo sul nascere. Per non aspettare fino a che abbia raggiunto così lontano il tuo sentimento e poi ti arrabbi su chi o che. Non è religione. La religione dice lo stesso, ma nella Kabbalah impari perché, il perché, ossia viene dalle leggi dell'universo. La rabbia, la furia è più dannosa dell'adulterio o di qualsiasi altra cosa, anche se nei nostri occhi non sembra così importante. Diventi arrabbiato o furioso e poi ti senti rilassato. Rilassato significa che non c'è movimento spirituale. Non devi voler essere rilassato. Le persone amano essere rilassate perché in quel momento non sentono dolore. Proprio come il gatto che giace accanto a me, russando, non fa male. È bello andare in giro con persone rilassate. Certo, devi sforzarti per sentire pace in te stesso, ma non a scapito di ogni cosa che così ti senti rilassato. Prima che noi calcoliamo, dobbiamo respingere. Dopo il calcolo, sembra che hai la forza di ricevere altruistico, non di ricevere per te stesso. Certo, deve esserci il piacere, ma in modo tale che dai piacere al creatore, alle leggi dell'universo. Ciò significa che ti porti in armonia con le leggi dell'universo. Questo è ricevere altruistico, ricevere in un bel modo. La Kabbalah ci insegnerà che tutto è permesso perché in te è costruito un sistema. Non devi più pensare, non devi fare calcoli, perché in te c'è un sistema anti-egoistico con cui tu non lasci il passaggio a quello che non è buono per te. Ovviamente le goccioline arriveranno, non sono ancora corrette, e questo è buono perché allora hai del lavoro da fare. Ricevere altruistico significa riflettere la luce, Or Kosher. Nel disegno esso è in blu, là il blu ha la caratteristica di respingere. È senza freccia perché è un rigetto ordinario, non sale ad una particolare altezza. Riflettendo può esserci qualsiasi cosa, anche una frase nello Zohar. Supponi che io leggo Zohar, il testo è la luce diretta, Or Yashar. Quando inizi devi riflettere immediatamente. Se tu non fai questo diventa una lettura ordinaria. La riflessione deve essere lì subito e poi si inizia a guardare ciò che si può sperimentare ancora. Prima il rifiuto, pertanto questo è chiamato fusione-collisione. Prima il rifiuto e poi il riflettere, questo significa già una reazione a ciò che posso prendere da Zohar o da un pezzo di carne che voglio mangiare o un altro tipo di piacere. Ogni cosa nel nostro mondo è piacere. Il Creatore ha creato in modo che possiamo solo ricevere. Vuole darci piacere, qualsiasi cosa che vogliamo. Ma non possiamo, o a volte non lo vogliamo. La luce riflettente è chiamata Or Kosher o Or Din, luce di severità. Severità là viene dal mio interiore, non dalla luce. La luce perfetta è dalla mia reazione, dal fuoco in me, lì viene come una specie di luce, luce della mia resistenza a non ricevere la luce in tutta la sua ricchezza. Luce di severità, la mia limitazione, e quindi è chiamata Or Din, luce di severità. La luce della severità è ovviamente più spessa, non è fine come la luce che viene diretta. La venuta della luce è sempre più fine, più delicata, di una frequenza maggiore rispetto alla luce riflettente. Quindi Zohar ci dice che in Or Din è il colore rosso e in Or Yashar bianco. È bene vederlo in questo modo. La fase successiva che ci sta dicendo che il Masach rifiuta la venuta della luce senza una comprensione di che piacere è. Per esempio, ti piace il caffè? No. Vuoi mangiare? No. Sempre prima il rifiuto che la degustazione. Quella è Or Kosher o Or Din. Il riflettere è chiamato Or Kosher. E Or Din è in qualità, luce di severità. Or Kosher è la direzione che essa scende sempre. Or Din, luce di severità, in qualità, perché è luce di limitazione. Io vado ad esempio a una festa e in ogni occhio vedo 10 donne, ma non riesco nemmeno a gestire mia moglie. Il desiderio è lì, ma non ho la forza. L'uomo deve calcolare sempre. Voglio questo, ho la forza. Voglio avere una Rolls Royce, ho la forza per comprarla. il desiderio deve essere kosher sempre. Devi imparare quale desiderio è kosher per te. Non guardare altre cose. Se non è per te, allora non deve esserci alcun problema. Or kosher, che è luce più spessa della luce diretta, continuando a formare una sorta di canale, ogni cosa che è più spessa può raccogliere qualsiasi cosa che è più leggera. La luce diretta, Or Yashar, entra nel canale e in parte si fonde con Or Kosher ed entra nel Kli. Nel canale siede quindi il rosso, non proprio rosso perché è già fuso quando arriva al Kli. Il Kli non è corretto completamente, quindi quando entra il piacere è sperimentato in diversi modi. Una persona dice «mi piace il caffè» e ad un'altra «non piace». In questo modo ci sono diverse correzioni. Zohar ci dice che all'interno siede la luce diretta e il Kli lo circonda, che è la luce riflessa. Kli non è nient'altro che Or Kosher, prende la luce diretta e la trae dentro, che è il Kli e niente di più. Kli è quindi quello che rifletti. Cosa rifletti è anche luce, solo luce più spessa, e da questo tu accetti la luce che puoi gestire in quel momento. Attraverso la tua bocca entra in te. Il luogo in cui viene la luce è sempre chiamato pe, bocca. Nello spirituale tutto entra, proprio come nell'essere umano, attraverso la bocca. Lo sentiremo e non ci perderemo in qualunque cosa esiste nel nostro mondo. Vedremo l'unità, la totalità in ogni cosa. Di in questa settimana su qualsiasi cosa che fai, Gam Zetov. Anche questo è per il bene. Anche se non hai la forza di vederlo in realtà, è buono dire Gam Zetov, non per oggi, ma per domani e dopodomani. Attraverso questo puoi riflettere la luce e riceverai unità e Shalom. Shalom.